La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati all'appuntamento con La storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole questa settimana è dedicato alla stagione dell'autunno caldo del 1969. Ospite ai nostri microfoni, Giorgio Benvenuto, sindacalista, fondatore Federazione Lavoratori Metalmeccanici. Nella seconda parte del programma ricordiamo la figura di Marek Heldman, vicecomandante della rivolta ebraica del ghetto di Varsavia, con un'intervista al suo amico giornalista Vlodek Goldkorn. Ma ora la parola va a Dino Pesole. È stato definito l'autunno caldo, espressione che viene spesso evocata anche ora quando si paventa l'inizio di una stagione di dure rivendicazioni sindacali. Era il 1969, stava per chiudersi un decennio che aveva visto alternarsi la feconda stagione riformista del primo centrosinistra, il governo Fanfani, ai governi centristi guidati da Aldo Moro. Dopo gli anni del boom economico, la congiuntura aveva virato decisamente al peggio. Nel 1964 c'era stata la dura stretta monetaria decisa dal governatore della Banca d'Italia Guido Carli d'intesa con il ministro del Tesoro Emilio Colombo. Ebbe inizio una fase di dura conflittualità nelle fabbriche. Quegli eventi ci vengono ora riproposti 40 anni dopo dalla Fondazione Bruno Buozzi attraverso una raccolta di saggi, testimonianze dirette dei protagonisti di allora e interviste dal titolo 1969, i metalmeccanici e l'autunno caldo a cura di Sandro Roazzi. Preceduto dagli scioperi della primavera, l'autunno caldo del 1969 cominciò a fine agosto, quando esplose alla Fiat l'avvertenza sui ritmi di lavoro e l'inquadramento nelle varie categorie operaie. Le officine di Mirafiori entrarono in sciopero lunedì 1 settembre. Il giorno successivo, gli scioperanti salirono da 250 a 800. A guidare la protesta furono i metalmeccanici. L'avvertenza si trascinò fino al 21 dicembre, quando venne siglata l'intesa con la Confindustria. Decisiva fu la mediazione condotta dal ministro del Lavoro, Carlo Donat-Cattin. In quell'autunno scese in piazza 1,5 milioni di tute blu. Le richieste dei sindacati furono alla fine per buona parte accolte, tra cui la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a 40 ore. Alla fine del 1969 le ore di sciopero ammontarono a 302 milioni contro i 74 milioni del 1968. La prima tangibile conseguenza dell'autunno caldo fu l'aumento del costo del lavoro, che nel biennio 1969-1970 si attestò in media attorno al 15%. L'inflazione, che nel 1968 era stata dell'1,73%, balzò nel 1970 al 6,87%. Pierpaolo Pasolini scrisse di quegli anni: «C'è stato un momento in cui pareva che la rivoluzione sarebbe scoppiata all'indomani. Era l'onda lunga della contestazione del 1968, cui si aggiungevano ora le dure rivendicazioni operaie». Il contratto dei metalmeccanici venne firmato ufficialmente l'8 gennaio del 1970. Alla fine di quel duro autunno la Fiat produsse 175.000 auto in meno. Nel corso dell'avvertenza si andò molto spesso a un passo dalla rottura, come ricorda lo stesso Gianni Agnelli. L'allora ministro del Lavoro, ricordo che in una trattativa che stava conducendo con i metalmeccanici, che stava per concludersi, non la concluse fino a quando io non consentii, dopo parecchie ore di resistenza, di riassumere in fabbrica un centinaio di operai che si erano resi responsabili di violenza. In quello stesso mese di dicembre, il 12 dicembre, la bomba collocata in Piazza Fontana diede avvio a quella che sarà definita la strategia della tensione. La sede della Banca Nazionale dell'Agricoltura in Piazza Fontana è colma di clienti venuti soprattutto dalla provincia. Sono le 16:37 quando nel grande salone dal tetto a cupola scoppia un ordigno contenente 7 kg di tritolo. Nella grande sala, orrendamente mutilati, i 16 corpi delle vittime. I tragici fatti di Milano accelerarono la conclusione della trattativa che si chiuse il 21 dicembre. Abbiamo in linea Giorgio Benvenuto, che è un protagonista assoluto degli eventi di quegli anni. Allora lui era segretario della UILM, poi è stato segretario generale della UIL e poi tante altre cose insieme. Grazie e benvenuto per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi. Ci rievochi per i nostri ascoltatori i passaggi salienti, lei che in quel periodo fu appunto un protagonista di questa durissima trattativa e di tutto quel periodo che poi è stato definito l'autunno caldo. Sì, fu una trattativa molto concentrata, perché in pratica in pochi mesi, con l'intervento di Don Acattin, ministro del lavoro, noi fummo continuamente in maniera ininterrotta al Ministero del Lavoro per arrivare alla conclusione di questo contratto. Prima si raggiunse un'intesa con le aziende a partecipazione statale e poi immediatamente prima di Natale ci fu l'intesa anche con l'industria privata. Era un contratto che di fatto anticipava lo statuto dei lavoratori, determinava una riduzione progressiva dell'orario di lavoro per avere le 40 ore in 5 giorni, quindi una vera e propria svolta nel costume di vita, e poi dava anche importanti risultati dal punto di vista salariale che erano definiti in maniera uguale per tutti, operai ed impiegati, e riavvicinava le condizioni normative tra gli impiegati e gli operai. Però era un contratto che poneva anche l'esigenza di realizzare delle riforme nel paese. Era appena finito il centro-sinistra, c'era la necessità di cambiare il paese. Quella che era più sentita era quella del problema della casa, della scuola e della sanità. Quindi cosa posso ancora aggiungere? Che non fu facile, furono tantissimi gli scioperi, ci furono momenti di grande tensione, come quando morì un poliziotto durante uno sciopero generale a Milano e quando ci fu la drammatica strage di Piazza Fontana. Ecco, la situazione ribolliva e quei sindacati seppero, come dire, trasformare quella protesta, che aveva anche tinte molto forti, in una proposta, e alla fine fu possibile fare un contratto che venne contemporaneamente accompagnato dalla conclusione di tanti altri contratti di lavoro che avevano un movimento di scadenza simile a quello dei metalmeccanici. Che importanza ebbe quell'accordo e in genere quello che è stato definito l'autunno caldo sul futuro poi delle relazioni industriali nel nostro paese? Mise il sindacato sullo stesso piano del mondo imprenditoriale. Il sindacato diventò un protagonista e quindi vennero superate quelle condizioni che avevano emarginato il sindacato negli anni precedenti, anche per la divisione che esisteva nel sindacato, per l'eccesso di politicizzazione che contraddistingueva questa divisione sindacale. Il sindacato si rafforzò fortemente come adesioni e fu anche in grado di porre con grande forza la necessità delle riforme. Le stesse richieste, che furono molto onerose, erano viste con un atteggiamento in parte favorevole dal mondo imprenditoriale, perché immaginava che una politica di più alti salari avrebbe potuto rafforzare la capacità competitiva, la capacità di produzione del paese. E che cosa mancò? Mancò poi negli anni 70 una capacità da parte del mondo politico di cogliere questa esigenza di cambiamento. Sì. Il mondo imprenditoriale invece cambiò di molto, perché si attrezzò, e il mondo imprenditoriale costituì poi all'inizio degli anni 70 la Federmeccanica, e quindi cominciò ad affrontare i problemi anche rinnovandosi. Poi avemmo la presidenza della Confindustria, che venne presa direttamente da Gianni Agnelli, cercò di trovare questa intesa con il sindacato. Quindi furono anni di alti e bassi, dove si tentò anche uno spirito di collaborazione, ma sì, anche questo tentativo, per le difficoltà politiche, per il modo con il quale si determinò a metà degli anni 70 il compromesso storico, ecco, non dette l'auspicato sbocco riformatore al paese, e negli anni successivi ci si dovette misurare con una grave crisi economica, ma anche ci si dovette misurare con il terrorismo. La storia e la memoria. Concludiamo con La storia e la memoria, la serie di approfondimenti che Radio 24 ha dedicato alla giornata della memoria, celebrata il 27 gennaio scorso. Vi proponiamo un'intervista a Vlodek Goldkorn, giornalista ma soprattutto grande amico di Marek Eldman, figura chiave della rivolta del ghetto di Varsavia, avvenuta nel 1943. La verità è nessun rapporto con questo rito. Proprio nessuno, o poco. Era molto refrattario a ogni celebrazione e a ogni tipo di rito, anche perché, non per snobismo, ma perché per lui contava solo la vita concreta e il futuro. Così come lui era refrattario a ogni tipo di retorica eroica, no? Lui, quando uno diceva nel ghetto hanno combattuto, avete combattuto per scegliere il modo con cui morire o qualcosa del genere, lui ti interrompeva dicendo: no, noi abbiamo combattuto perché volevamo sopravvivere, oppure abbiamo combattuto perché non si poteva non combattere, perché diceva sempre anche questo, che sì, certo, prima di tutto viene la libertà e poi viene la vita, ma in realtà è la vita che viene prima di tutto, perché poi alla fine tutto quello che noi facciamo è perché ci piace vivere, perché vogliamo vivere, perché lui anche su questo c'entra niente le celebrazioni, ma c'entra. Lui era sempre rimasto molto arrabbiato con coloro dei suoi compagni dell'organizzazione ebraica di combattimento che commisero il suicidio lì nel bunker quando erano accerchiati dai tedeschi, e lui diceva: no, non dovevano farlo, dovevano cercare di uscire, perché non sai mai cosa ti succede. Ecco, per cui l'unica data che per lui valeva, o che in cui lui indugiava a una celebrazione, che poi non era neanche una celebrazione, era il 19 aprile, che l'anniversario dell'insurrezione nel ghetto di Varsavia. Anche lì lui non partecipava mai alle celebrazioni ufficiali, semplicemente a mezzogiorno con i suoi amici andava a deporre fiori lì a quel monumento dei suoi amici morti e dei suoi compagni morti, ed era l'unica celebrazione a cui lui partecipava, ecco. Il suo modo di vivere la memoria fu anche e soprattutto l'essere fedele proprio a Varsavia, no? Questo radicamento nella città che ha segnato tutta la sua storia, tutta la sua parabola anche di grande intellettuale europeo. Mi sembra questa la traccia definitiva del suo rapporto con la memoria. Anche lì è più problematico, direi, perché lui poi in realtà viveva nella città di Lodz e faceva lì il cardiologo. No, era essere fedeli ai propri ideali e ai propri amici, e era non tradire, era solo questo, ed era anche usare la memoria nel modo migliore possibile, cioè per difendere coloro e quasi mettere al servizio la memoria al servizio di coloro che oggi ne hanno bisogno. Allora, ai tempi dell'assedio di Sarajevo, lui metteva la memoria del ghetto al servizio degli assediati a Sarajevo. Lui ha guidato un convoglio umanitario che poi non è arrivato a Sarajevo perché è stato bloccato dai serbi strada facendo, ma lui ha dato delle interviste in giornali in cui diceva Sarajevo è come il ghetto di Varsavia. Non era importante se fosse veramente esattamente l'analogia, fosse giusta o non giusta, semplicemente la memoria non andava fossilizzata, non andava cristallizzata in una contemplazione del passato, ma andava usata politicamente, perché lui è stato due cose fino all'ultimo giorno della sua vita: è stato un medico cardiologo prima di tutto e in secondo luogo un militante. Direi un rapporto strategico, no? La memoria come strumento da adattare poi a, diciamo, di volta in volta alle battaglie che si volevano combattere, una volta scelto lo schieramento dalla parte di cui stare, insomma. Sì, era così, e trasferire tutti gli ideali, i suoi ideali della gioventù, del militante del Partito Socialista Bund, del Partito Socialista Ebraico in Polonia, il Bund, alle cose di oggi. Lui diceva, per esempio, Solidarność è come il Bund. Questo è ai tempi di Solidarność. Ora, uno storico, gli storici possono discutere, era vero o non era vero, certo che non era vero, ma non era questo l'importante. L'importante era queste cose: dignità, fraternità, dignità, fratellanza, libertà, preoccupazione, l'aiuto al più debole. Era questa la sua cosa. Dopodiché, detto questo, lui ovviamente ci teneva molto, ma questo perché noi più giovani di lui ci tenevamo molto che lui raccontasse anche le cose, quello che è successo. E lui lo raccontava, però era molto refrattario anche a raccontarlo. L'ha fatto diverse volte, ha fatto l'ultimo è il libro che è appena uscito da Salerio, c'era L'amore nel ghetto. Era molto refrattario a raccontare queste cose, non perché se ne vergognasse, ma perché si annoiava. E a lui gli interessava ascoltare, non gli piaceva raccontare, voleva ascoltare, voleva sapere le cose degli altri. Era molto curioso delle persone, non era curioso delle idee, era curioso delle persone e di come le persone vivono concretamente e come concretamente applicano le idee che professano. Dei giovani, cosa lo incuriosiva, cosa voleva ascoltare? Perché siamo abituati a vederlo appunto come uno dei grandi saggi, dei grandi vecchi dell'Europa, e quindi alla luce di quello che mi dici lo immagino voglioso e desideroso di confrontarsi con le nuove generazioni europee. Assolutamente così. Se tu gli dici, allora, per esempio, lui odiava essere, non voleva essere chiamato grande vecchio, non voleva essere chiamato saggio, non voleva essere trattato come un eroe. Se diceva, guarda, devo scrivere qualcosa su di te, lui subito si metteva lì e diceva, oh, mi raccomando, però per favore non fare di me un eroe, perché non sono mai stato un eroe, ho fatto quello che le non per dire il mio dovere, no, io ero un militante e quindi questo facevo, io mi sono comprato perché è quello ero. Qualche volta sono riuscito a fare cose anche eroiche, qualche volta no, fine. Per quanto riguarda i giovani, a lui interessava tutto quello che facevano i giovani. Lui per esempio era uno che ogni volta diceva, appena poteva, questo, ovviamente chi ha fatto il 68 oggi non è più giovane, ma per lui il 68 è stata una cosa fondamentale nella storia dell'Occidente ed Europa, perché diceva sempre, il 68 ha cambiato tutti i nostri costumi, ha cambiato i nostri usi, i nostri costumi, la nostra politica, il mondo è diventato più libero grazie al 68, per esempio, per darti solo un esempio del suo rapporto con i giovani. Lui ascoltava moltissimo, i suoi nipoti, per esempio. Lui aveva un rapporto molto forte, molto stretto con tutti i suoi nipoti, gli piaceva ascoltarli, voleva ascoltarli, sono poco più che ventenni, intorno ai vent'anni, lui voleva sempre ascoltarli, voleva sapere cosa pensavano, come la pensavano, cosa facevano, era così. Ad oggi di Edelman rimane chiaramente forte nella memoria più l'immagine del vice comandante del ghetto di Varsavia, chiaramente per l'eccezionalità di quell'episodio tragico ed eroico, piuttosto che invece l'immagine di un intellettuale a tutto tondo quale egli in realtà è stato per tutta la sua vita. Credi che anche questo sia un deficit della memoria che tende poi a cristallizzare queste figure per renderle per noi che sopravviviamo un po' meno problematiche, un po' più gestibili? Sai, lui per primo non si considerava un intellettuale, quindi ci sto riflettendo ora a voce alta, perché la tua domanda mi pone un problema vero, cioè in realtà la sua memoria, che sembrava così pesante, così ingombrante, così, perché era la memoria del XX secolo, tutto quello che è successo nel XX secolo, non ci scordiamo che lui è stato anche un militante dell'opposizione democratica contro il comunismo, e quindi cioè lui c'era non solo con i fascisti, ma anche con i comunisti. Allora, però a oggi, quando ci penso, in realtà è una memoria leggera nel senso migliore della parola, cioè una memoria che non pesa, perché è una memoria che noi che abbiamo avuto il privilegio di averla trasmessa da lui, o che abbiamo avuto la curiosità di andare a cercarla, e in qualche modo ci rimane lì nel cuore, perché è come una persona a tutto tondo, appunto, come dici tu, intellettuale, combattente, eroe no, assolutamente no, bisogna rispettare questo suo fatto che lui non voleva dire che lui rifiutava l'etichetta dell'eroe. Rifiutava anche la parola tragicità, per lui non esistevano situazioni tragiche, c'era sempre una via d'uscita, potevi ovviamente non volerla imboccare, dice anche lui, qualche volta gli è capitato di non aver avuto il coraggio di fare certe cose. Però non esisteva una situazione tragica, appunto non esisteva il suicidio, non esisteva una situazione senza via d'uscita, c'era sempre una via d'uscita che dovevi trovare. È una memoria benedetta, perché si dice, se noi ebrei diciamo sempre benedetta sia la sua memoria, lui non credeva in Dio, ma la sua memoria da questo punto di vista è veramente una benedizione di cui io godo in qualche modo. E che spero di trasmettere anche alle generazioni future. Se ne va di fatto con Edelman l'ultimo grande depositario della tradizione, dell'eredità culturale ed umana del Bund. Sì, è così, è finita. Con lui è finita, ma se n'è andato anche l'ultimo testimone della Shoah, in realtà. Certo, ci sono altri, ma da questo punto di vista se n'è andato. L'intervista che avete ascoltato è stata curata da Dario Ricci. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Manuela Sicuro. La storia e la memoria vi danno appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.